पड़ी थी आस लगाए Giardino del mio cuore, il titolo di questa canzone, e lui è Faiz Ali Faiz, pakistano, grande erede del compianto Nusrat Fateh Ali Khan, uno dei più grandi interpreti del sufismo in versione kabbali. In questo album, Yadu, che significa magico, e con il francese Tete Robin, appassionato di musiche del mondo, un album che vi abbiamo già passato. Però a questo punto sono arrivate le 21 e facciamola proprio iniziare, facciamola entrare dalla finestra, la cicogna nera. La cicogna nera. Ed eccoci qui dunque, anche per questo giovedì sera iniziamo le sonorità popolari contemporanee. Apriamo in questo giovedì che non ci sono le sonorità balcaniche di CPT Balkan Music, apriamo proprio la serata musicale di Radio Onda Rossa, che poi proseguirà con il Noctibus Panis. E io mi scuso subito, immediatamente, con gli ascoltatori, perché la presentazione, il live di cui vi avevo parlato la settimana scorsa, l'avevo annunciato per questo giovedì, è saltato di nuovo da 3 settimane, da un mesetto ormai sta saltando. C'è una sorta di macumba nera, no? Su questo progetto di canti a dispetto di Antonio Marotta, che però forse quando verrà qui risulterà ancora più interessante. Facciamo una cosa, io non ve l'annuncio più, quando sarà il momento ve li troverete qui in studio e sentirete insomma questo progetto di Marotta con i suoi canti a dispetto. E dunque, per questo giovedì, per questa puntata della cicogna, improvvisiamocela un po', facciamo una playlist un po' così improvvisata, e vi passo subito un progetto appena uscito. Ve lo passo sinceramente perché ve l'avevo detto che ve l'avrei passato, perché sinceramente l'ho ascoltato questa mattina per la prima volta e giudicate voi. Loro sono un grande gruppo in realtà, che si chiamano i Balkan Beatbox, di stanza a New York, e i componenti, due dei suoi componenti, sono un ex Gogol Bordello e un rom israeliano che si chiama Tamir Muscat. Hanno appena pubblicato Give in questo marzo, in questo 2012. Vi ho passato un anticipo di release circa 3 settimane fa, e vi avevo detto che quel brano era abbastanza allucinante, perché si era persa completamente tutta l'atmosfera di qualsiasi riferimento balcanico e di suoni del mondo. Pensavo che avessero corretto il tiro, ma in realtà non so se sia proprio così. Intanto ascoltiamoci una delle canzoni principali, Part of the Glory. Like me on the mic, like that you're floating like a kite, then you might be flowing. All you got might not be going back to what you used to. Think bigger than YouTube, something to be good to. We all rientriamo da questa parte di gloria del nuovo album dei Balkan Beatbox, ma anche le compagne qui in studio che mi accompagnano questa sera dicono terribile. Mi scuso con i Balkan Beatbox, ma questo gruppo che è nato come, diciamo, ibrido di musica elettronica e suoni balcanici, in questo terzo album ha completamente perso qualsiasi componente popolare, folk, di musica balcanica che poi aveva anche allargato nel penultimo progetto di 2 anni fa, che insomma includeva anche sonorità da altre parti del mondo oltre quelle balcaniche, perché si erano aperti un po' alla cumbia centroamericana. Dunque, bel progetto. Non si sa che gli è successo questa volta a questo gruppo di base a New York, che leggiamo sul sito della Cram e dall'etichetta belga che lo pubblica, che di solito fa dei buoni progetti. La combinazione di gusti assortiti da tutto il Mediterraneo con una solida roccia di fondamento per il reggae, e insomma il Mediterraneo proprio non c'è in questo album. Comunque andiamo avanti, iniziamo da un progetto forse migliore, che anche questo in realtà ve l'ho passato, però è una delle cose buone che ha fatto Tamir Muscat nel 2011, perché ha prodotto una famiglia di israeliani tagiki. Sono praticamente un gruppo di una famiglia del Tagikistan che però dovrebbe essere emigrata da tempi ormai remoti a Tel Aviv, e che ha fatto un bel album lo scorso anno. Loro sono The Alive Family, la famiglia di Alive. Lui, il capo stipite, si chiama Allo Alive ed è nato nel 1930, ha profonde radici nella musica del suo Tagikistan, anche quello nella musica ebraica di Bukhar o Bukhara, che è una città che fa parte dell'Uzbekistan, dunque nell'Asia centrale, e che a giudicare dalle foto ha veramente degli edifici millenari, è un centro storico veramente veramente notevole, dunque una storia molto profonda per Bukhar o Bukhara, che probabilmente era una delle città in cui si passava dalle vie della seta. Intanto andiamoci ad ascoltare questi The Alive Family e Tamir Muscat, che vi ho già passato. Questa volta ci sentiamo altri due brani, il primo è quello proprio che chiude l'album, si chiama Vionun, proprio a identificare lo strumento. Thank you. Non è il titolo di questa canzone, probabilmente il canun, lo strumento che avete sentito, che è uno strumento persiano, medio orientale, fondato, meno male che ha le sue radici all'incirca nel nono, anzi nel decimo secolo. Leggo precisamente questo istante su Wikipedia, in Farab, una città dell'Iran. Loro sono The Alive Family, sono sette elementi, come vi dicevo, lui, il padre, il capomastro, Allah Alive, è colui che ha portato e sta portando e continuerà a portare sul palco tre generazioni di musicisti, tutti parenti, nipoti, figli, da quando nascono e da quando hanno cambiato il pannolino, insomma, si esibiscono e fanno musica dal vivo. E sono uno di quei gruppi, no, che fanno musica per farla ascoltare dal vivo agli altri, non sono un gruppo che può fare musica per andare in studio di registrazione, come insomma era normale fino a poco tempo fa per fare musica. E proprio in questo caso e in questa musica ci sono i canti tradizionali, parecchi diversi canti tradizionali del Tagikistan. In questo caso Tamir Muscat ha fatto un buon lavoro, insomma, li ha resi un po' dei beat world, no? Codificandoli in qualche modo, globalizzandoli, delocalizzandoli dal canto proprio popolare, tradizionale del Tagikistan, li ha resi un po' globalizzati. E dunque questi sono un buon gruppo che fa musica con i modi dell'Asia centrale, però che ha un groove, uno spirito veramente, veramente molto da Rom, da Gypsy. L'insalata greca avete appena ascoltato. L'insalata greca è il titolo di questa canzone, The Alive Family. Ancora una volta ci siamo ascoltati questo gruppo, e che praticamente è una danza, uno horos, no? Lo horos, chiamato anche koros, chiamato anche kolo in croato, bosniaco, montenegrino, la hora che arriva invece dalla Romania, il turco, anche hora, sto leggendo, insomma, tutte quante ridanno a questa danza che ha avuto grande sviluppo in tutta l'area est europea, l'area dei Balcani, e che arriva, prende piede proprio dalla hora, di questo termine greco, che in pratica dovrebbe significare proprio una danza in circolo, se non mi ricordo male. Forse adesso lo vado anche a cercare, magari mi sbaglio. Voi non fidatevi mai al 100% di quello che vi dico. Comunque, questa hora che è presente in Romania, Moldavia, in Bulgaria, in Macedonia, in Montenegro, e che abbiamo ascoltato qui nella musica greca, è presente anche in una musica est europea che ha le sue radici, insomma, nelle stesse radici della famiglia The Alive, cioè quelle ebraiche. Lui forse, appunto, non so di quale ceppo, così, se mi passate il termine, faccia parte, però comunque c'è una grande musica che invece è venuta su, è nata dagli ebrei aschenaziti dell'Europa orientale, e che moltissimi conoscono, e che è il klezmer, che è questa grande musica, no? Di Klei e Zemer, di questi due termini che dovrebbero significare musica suonata, e che vengono, anzi, significa strumenti di canto, letteralmente la parola di Klei e Zemer, no? E che arrivano soprattutto da paesi dell'est Europa. Comunque anche qui, anche nella musica ebraica klezmer, c'è questa ora un po', no, si è sparsa dappertutto, perché comunque anche il klezmer ha delle profonde connessioni, nonostante le radici culturali e etniche siano profondamente diverse, sono molto molto vicine ai Rom, ai Gypsy, a tutte le musiche balcaniche, per farci vedere quanto, no, le etnie separano in realtà le radici culturali, musicali e quant'altro, uniscano tutte quante. Ebbene, allora, buttiamoci un po' sul klezmer ancora, radici ebraiche, per una nuova uscita, anche questa roba di settimane, penso, gli Amsterdam Klezmer Band, che avevano appena pubblicato 2 anni fa un nuovo album. Questa volta però hanno fatto un live per celebrare i loro 15 anni di unione del gruppo, che si chiama Mokum, appena uscito per quale etichetta, l'SA Recording, ecco, ora ve la sto dicendo. E andiamoci ad ascoltare, anche qui ci sono delle ore anche all'interno di questo gruppo, però ci andiamo ad ascoltare invece un Kocek, o Chokek, o Kokek, la pronuncia adesso mi sfugge, che comunque è un'altra musica, un'altra danza, anche questa emersa nel Balcani, soprattutto all'inizio del XIX secolo. Questa volta però si è originata soprattutto dalle bande militari turche, ottomane, dai giannizzeri che sono passati qua, dalla Serbia, dalla Bulgaria, soprattutto dal Kosovo, dalla Repubblica di Macedonia nel passato. E allora andiamoceli ad ascoltare con un Kocek dedicato a tal Oscar. We'll be right back. Kocek, esattamente, il termine esatto, ci dicono qui dallo studio, di questa danza ballabile. Ma subito ascoltiamoci un altro brano, Open Gope. Zonder Dine Schommer waren wij dit nooit begonnen. Altijd waren snappers goed betaald en was er eten. Laat me je vertellen dat wij altijd zullen zorgen dat er wijn, bier en stuff is voor naar de gig. Wij zijn een band die altijd rockt en nee, we nemen geen genoegen. Met wat voor routine klussen dan ook, we blijven zwoegen. We stampen als een beest omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette klesmer baggerstraal. Wat is er jongen? Zijn net begonnen. Zijn net begonnen, dat is ons leven, alles te geven. We waren jaren samen als een stel en dat was fijn. Maar het blijkt al beter om weer zonder je te zijn. Want ik heb een band en daarbij blaas ik voor mijn leven. Meiden komen blijven staan, ik heb zoveel te geven. Want ik ben een jongen met ongeschonden korfjes. Kom maar hier en zet je neer met je mooie tovers. Ik ben geen ganig, maar een gaaiers en ik ben geen slomer. Heb je hier geen sjoegen van, laat ik je lekker bomen. Ik ben geboren in de stad, die is gebouwd door palen. Heb je veel te vies in jou, ik moet nog even. Open Goppe, questo è il secondo brano dell'Amsterdam Klezmer Band che ci stiamo ascoltando questa sera. In precedenza avete ascoltato un Kocek, che è questo, questa musica, questa danza in 9/8 dovrebbe essere soprattutto conservata dai Roma, dai romani dei Balcani del Sud. In effetti è molto popolare tra i Roma musulmani e le popolazioni albanesi anche del Kosovo, proprio a identificare quell'abbattimento della barriera di cui vi parlavamo prima, no? Cioè il klezmer, che rifà questa musica che è particolarmente popolare, che è stata tramandata dai giannizzeri dall'impero ottomano, è stata insomma preservata e continua a essere suonata grazie ai romani e poi da tutte le altre influenze. E klezmer è anche, no, questa musica, il kocek dei Rom e anche il klezmer hanno tutte e due le stesse modalità, soprattutto sono feste e banchetti di matrimonio, ma anche funerali, sono eventi di vita quotidiana. E la musica dove ci serve, dove va suonata? E a questo punto, alle 21:30 precisa, restiamo ancora nei Balcani, andiamo proprio in un paese che abbiamo passato veramente poco, è l'Albania.

Melodie tradizionali della sua terra per questa musicista nata a Tirana, Eda Zari, che in questo album ha una profonda venatura di jazz. Questa è l'unica canzone, la title track, che si chiama Toca Incognita, che ha uno stampo, un approccio molto popolare. La sua voce e il clarinetto, che è uno strumento, è diventato soprattutto nel XIX secolo lo strumento principe soprattutto nella musica klezmer. Comunque questa è una nuova uscita, si chiama Toca Incognita, toca che in albanese dovrebbe significare terra, mondo. E siamo arrivati alle 21:40, ancora una ventina di minuti insieme, e per questa puntata rimaniamo sempre qua in zona Europa, Europa dell'Est, Mediterraneo, Medio Oriente. Entriamo in Medio Oriente per i prossimi due clarinettisti. Ecco, buttiamoci su questo strumento ancestrale, strumenti a fiato che, anzi ad un'ancia, lo strumento ad un'ancia che a quanto pare il primo, il più antico, dovrebbe essere il Mehmet egiziano del 2700 a.C. oppure c'è uno strumento a tre canne sardo molto semplice che dovrebbe risalire al 900 a.C. Comunque questi sono i precursori, diciamo, dell'ancia semplice. E poi adesso andiamo ad ascoltare due dei più grandi clarinettisti turchi e rom nello stesso momento, dunque, che fanno parte di una minoranza che sono veramente hanno una tecnica e un sentimento strabiliante. Il primo è Selim Sezler, nato, non lo so, però cresciuto, mi sembra, non vorrei sbagliare, eccolo qui, Kezan, 1957, nato a Kezan, o Kezan, una località di Edirne, comunque al confine, al proprio alla barriera tra Occidente e Oriente, in Tracia, dunque tra il mondo occidentale ed ellenistico e la cultura medio orientale che si apre con la Turchia. Lui è diventato famoso soprattutto verso il 1998, quando grazie alla cioè è stato invitato a un tour con Brenna McCrimmon, con la canadese, e grazie a lei, insomma, si è un po' aperto al mondo, perché per lui suonare voleva dire andare alle feste, ai matrimoni, no? La sua è proprio musica da matrimonio. È proprio da qui che andiamo ad ascoltare il primo album del 2006, l'Anatolian Wedding, i matrimoni dell'Anatolia, e la canzone è Kasap Abasi. casa Avasi il clarinetto di Selim Sesler in questi matrimoni anatolici. Lui che poi nel 1923, quando Mustafa Kemal, il padre Ataturk, no, ha fondato la Repubblica Turca, e c'è stata tutta questa diaspora dei greci che abitavano da quelle parti, questo scambio veramente epico, e la famiglia di Sesler si è mossa dalla Grecia alla Turchia ed è andata ad abitare proprio in questa enclave di Kesan, un'enclave chiamata Ibrik Tepe. Lui che è diventato un grandissimo suonatore di clarinetto, che ha iniziato con la zurna. La zurna è veramente uno strumento che ti entra nelle vene, è un oboe praticamente, quindi a doppia ancia, che usavano, no, nelle bande dei giannizzeri, che facevano veramente paura, percussioni con queste zurne che ti spaccavano il cervello. E poi comunque è approdato al clarinetto, che ha insomma una tecnica e una versatilità un po' maggiore. Clarinetto che però, anche questo non è il nostro clarinetto, no, quello occidentale, ma è soprattutto il clarinetto, quello che si chiama anche turco, quello in sol, che praticamente è in metallo, è come un sax, è come un metallo, come una tromba, e dà un suono un po' più duro, un po' più aspro, e proprio questo lo fa entrare un po' di più, no, in certe volte, forse è un po' meno armonico, meno versatile, però sicuramente in questa musica ci sta da Dio, nella musica di Selim Sesler, che andiamo ad ascoltare ancora quando sono le 21:47. Vi ricordo che siete all'ascolto della Cicogna Nera, i suoni dal mondo. Andiamo ad ascoltare con un altro album che si chiama Kesana Giden Yollar, che sono proprio le strade che portano a Kesana, all'enclave dove lui è cresciuto e dove insomma ha praticato, si è formato, dove suonava la musica. Quindi sono proprio le culture, le musiche che si praticavano a Kesana, da questa parte della Tracia. Ali Pasha. eccezionale il clarinetto di Salim Sesler, veramente tra i migliori al mondo per quanto riguarda sicuramente l'intensità, la passionalità con cui, no, si approccia a questo strumento. E ultima, anzi penultimo brano di questa serata, un altro clarinettista turco e rom, anche questo allo stesso momento, Barbaros Erkose, anche lui dovrebbe arrivare dalla zona, insomma, della Tracia, dunque a cavallo tra Oriente e Occidente. Andiamo di fretta perché il tempo sta finendo e vi passiamo una canzone del 2006, l'ultima canzone e l'unica canzone di questo album, che ha un approccio così un pochino elettronico, dove il suo strumento non si sente così molto, no, non è molto presente, ma poi sicuramente ve lo ripasseremo, lo approfondiremo. Bosphorus, Bosforo, Breeze. Medio orientale, che è un po' a poco a che vedere con invece l'approccio dei giannizzeri che abbiamo ascoltato prima in precedenza, in Salim Sesler, in quelle nuove truppe che furono la fanteria, la guardia personale dei beni del sultano ottomano, che è nata lì all'incirca nel XIII-XIV secolo, e che poi a un certo punto nel 1826, tra il sultano Mahmud II, in una sorta di pulsione filo-occidentale, ha praticamente abolito e sterminato. Non mi ricordo, forse questo è un mio ricordo, forse lui ha chiamato proprio un musicista italiano, forse Donizetti, una volta abolito questo corpo per riscrivere delle melodie, insomma. Questo però è un mio ricordo, e come vi ho detto prima non prendetelo alla lettera. Allora, 21.57, il Noctibus Panis è qua, si aggira nella stanza, noi siamo in conclusione e c'è giusto il tempo per passarvi un'ultima traccia. Eccola qui, un'ultima traccia, e praticamente approfitto perché c'è una compagna qui in studio questa sera che proprio questa mattina mi ha passato della musica, che è anche della sua musica, e dunque innanzitutto vi voglio far sentire una sua canzone di questo album che praticamente ancora non è pubblicato, giusto Antonella? Sì, ancora diciamo che ci sono i lavori in corso, ecco. Ecco, allora io intanto ti do il benvenuto a Radio Onda Rossa. Lei è appena arrivata. Grazie. Qui a Roma stamattina, e ha questo album di folk popolare italiano, correggimi se sbaglio, che è in uscita. Però siccome lei sta partendo per un anno, io colgo l'occasione a volo per farvi sentire l'anteprima di quest'area. Di che area italiana parliamo? Parliamo della provincia di Reggio Calabria. Sono degli stornelli popolari di fine 800 che abbiamo musicato, e sono di vario genere, diciamo. Sono dei testi popolari, però la musica cambia. Quindi praticamente il testo si è ripreso, si è ripartiti dal testo e si è rimusicato l'intero, no? No, non si è rimusicato perché è un testo e basta, noi abbiamo aggiunto la musica, quindi abbiamo creato la canzone. È musica ex novo. Esatto, infatti mi rendo conto anche che adesso cambieremo un po' la stile storia, rispetto, stile musicale rispetto alla puntata, che non è, diciamo, non si incolla perfettamente, però aiuta a lascialo pure, decidere. Esatto. Agli altri, non ti preoccupare, io dovete sapere che ho qui davanti a me track numero 002003 e il nome della mia compagna, che non vi posso dire per la privacy. Dunque, almeno dici il nome di questo gruppo che sta per pubblicare questo nuovo album. Sì, il gruppo si chiama Crumacardia. Crumacardia, che ha qualche significato. Sì, è un nome composto, deriva dal grecanico, che è la lingua da cui discende il nostro dialetto. E cruma significa suono e cardia significa cuore. Ah, quindi insomma, poesia allo stato puro. Esatto. Bene, mentre l'album è l'unica cosa che ho sotto gli occhi, e che si chiama Conti Cantati. Che esatto, significa... perché sono dei conti che in dialetto calabrese significa racconti. Cantati, appunto, sono dei racconti cantati, musicati, ex novo proprio. Esatto. Da voi, ecco. E allora ci lasciamo proprio questa sera con una canzone, esattamente la canzone numero 2, che chiederei a Antonella di presentarla, visto che ho scritto track numero 002, magari dai qualche informazione. Chiedo perdono per la mancata informazione. No, non chiedo perdono. No, la canzone si chiama Sdegno. Ecco. In italiano, si capisce benissimo, è lo sdegno, è una protagonista che è ferita dall'amore, e quindi in questa canzone chiude il suo cuore ed è nera di incazzatura, passatemi questo termine, perché è quello che rende di più. È quasi, insomma, un canto a dispetto, uno sdegno. Esatto, esatto. Bene, forse allora rimarremo in tema anche per le prossime puntate. E sono le 22, ci dobbiamo proprio lasciare. E allora, Conti Cantati, loro sono in Crumacardia, che a breve pubblicheranno. Io spero che torneranno qui a Radio Onda Rossa, anche se te sarai molto lontano geograficamente parlando, però comunque sicuramente vi ripasseremo le una volta. Le distanze non sono un limite. Ecco, perfetto. Dopo questa io saluterei tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Ci lasciamo con la canzone numero 2, Sdegno. Noi ci rivediamo giovedì prossimo, non so assolutamente con quale playlist. Comunque, tra poco qui sulle frequenze di Radio Onda Rossa in Noctibus Panis. Ciao, agliò. Sdegno che mi sdegnavo lucori tanto, quanto t'hai amato mi indipento. Se prima mi parivi bello tanto, ora mi pare gibulo e spavento, ora mi pare gibulo e spavento.